Saniet, convocato per fare il morto, dichiarò che non sapeva giocare a whist. E Cotard, vedendo che non mancava più molto tempo all'ora del treno, diede subito inizio a una partita di écarté con Morel. Il signor Verdurin, furibondo, marciò con aria minacciosa su Saniet. «Insomma, non sapete proprio fare niente!» esclamò inferocito per aver perso l'occasione di un whist, ma felice d'averne trovata una per insultare l'ex archivista. Questi, terrorizzato, fece lo spiritoso. «Ma sì, me la cavo al pianoforte!» replicò. Cotard e Morel s'erano seduti uno di fronte all'altro. «A voi l'onore!» disse Cotard. «Se ci avvicinassimo un po' al tavolo da gioco?» disse al signor di Cambremer il signor di Charlus, che si preoccupava vedendo il violinista con Cotard. «Non è meno interessante delle questioni d'etichetta che, ai nostri giorni, non significano più gran cosa. I soli re che ci rimangono, almeno in Francia, sono i re delle carte da gioco e mi sembra che ne stiano arrivando a bizzeffe in mano al giovane virtuoso», aggiunse poco dopo, giacché la sua ammirazione per Morel si estendeva sino al suo modo di giocare, ma anche per lusingarlo e infine per spiegare il movimento col quale si chinava sulla spalla del violinista. «Taglio!» disse, imitando l'accento dei biscazzieri, Cotard, i cui figli scoppiarono a ridere come facevano i suoi studenti e il suo assistente quando il maestro, magari anche al capezzale d'un malato grave, lanciava, con una maschera impassibile da epilettico, una delle sue abituali facezie. «Non so bene cosa giocare», disse Morel, consultando il signor di Cambremer. «Non ha importanza, perderete comunque. A questo punto l'una va all'altra». «Gallimari?» disse il dottore, indirizzando al signor di Cambremer uno sguardo insinuante e benevolo. «Era quel che si dice un'autentica diva, un sogno, una Carmen come non ne vedremo più. Era ideale in quella parte. Ma mi piaceva anche la Engali». «Marie?» Il marchese si alzò, con la volgarità arrogante delle persone bennate che non si rendono conto di insultare il padrone di casa affettando di non essere sicuri della frequentabilità dei suoi invitati e giustificano con l'abitudine inglese l'uso di un'espressione sprezzante. «Chi è quel signore che sta giocando a carte? Cosa fa nella vita? Cosa vende? Mi piace sempre sapere con chi mi trovo per non entrare in rapporti col primo che passa. Confesso di non aver sentito il suo nome quando mi avete fatto l'onore di presentarmi a lui». Se il signor Verdurin, sentendosi autorizzato da queste ultime parole, avesse effettivamente presentato ai suoi invitati il signor di Cambremer, questi l'avrebbe trovato del tutto inopportuno. Ma poiché sapeva che era successo esattamente il contrario, gli sembrava grazioso assumere senza rischi un tono bonario e modesto. La fierezza che il signor Verdurin traeva dalla sua intimità con Cotard s'era accresciuta da quando il dottore era diventato un professore illustre, ma essa non si esprimeva più nella forma ingenua d'un tempo. Allora, quando Cotard era malapena conosciuto, se qualcuno interpellava il signor Verdurin sulle nevralgie facciali della moglie, «Non c'è niente da fare», rispondeva, con l'ingenuo amor proprio delle persone convinte che tutto quanto conoscono loro sia illustre e che tutti quanti conoscano il nome del professore di canto della figlia. Se il suo fosse un medico qualsiasi, si potrebbe cercare un'altra cura, ma quando questo medico si chiama Cotard, nome che egli pronunciava come se fosse stato Bouchard o Charcot, è inutile insistere. Applicando un procedimento inverso, basato sulla certezza che il signor di Cambremer avesse sentito parlare del famoso professor Cotard, il signor Verdurin prese un tono sempliciotto. «È il nostro medico di famiglia, un cuore d'oro al quale vogliamo un gran bene, e che si farebbe in quattro per noi, più che un medico è un amico. Non penso che lo conosciate, né che il suo nome possa dirvi qualcosa. In ogni caso, per noi è nome d'un uomo eccellente, d'un amico carissimo, Cotard». Questo nome, mormorato con tono modesto, ingannò il signor di Cambremer, che credette si trattasse d'un altro. «Cottard? Non starete parlando del professor Cottard?» Si sentiva per l'appunto la voce del succitato professore che, in imbarazzo sulla giocata, diceva, guardando le proprie carte: «Qui attendevano al varco gli ateniesi.» «Ma sì, in effetti è professore», rispose il signor Verdurin. «Come? Il professor Cottard? Non vi starete sbagliando? Siete proprio sicuro che sia lo stesso? Quello che sta in Rue du Bac?» «Sì, al 43 di Rue du Bac, lo conoscete? Ma tutti conoscono il professor Cottard. È una cima. È come chiedermi se conosco Bouffe de Saint Blaise o Courtois Soufi. E avevo visto io, sentendolo parlare, che non era un uomo comune. Per questo mi sono permesso di interpellarvi.» «Allora cosa devo giocare? A tu?» stava chiedendo Cottard. Poi di colpo, con una volgarità che sarebbe stata fastidiosa persino in una circostanza eroica, quando un soldato vuol dare un'espressione familiare al disprezzo della morte, ma che diventava doppiamente stupida nell'innocuo passatempo delle carte, Cottard, risolvendosi a giocare un tu, prese un'espressione cupa da disperato e, alludendo a coloro che rischiano la pelle, buttò la sua carta come se fosse stata la sua vita, esclamando: «Dopotutto me ne frego!» Non era la carta giusta, ma Cottard trovò di che consolarsi. In mezzo al salotto, in una grande poltrona, Madame Cottard, cedendo all'effetto per lei irresistibile del dopo pranzo, s'era abbandonata, dopo vani sforzi, al sonno vasto e leggero che si impadroniva di lei. Aveva un bel raddrizzarsi di tanto in tanto e sorridere, o per burlarsi di se stessa o nel timore di lasciare senza risposta qualche parola gentile che le venisse rivolta, ricadeva sempre, suo malgrado, in preda al male implacabile e delizioso. Più del rumore a svegliarla così per una seconda appena era lo sguardo che, per tenerezza, lei vedeva anche a occhi chiusi e prevedeva, giacché la stessa scena si ripeteva ogni sera e ossessionava il suo sonno, come l'ora in cui ci si dovrà alzare, lo sguardo con cui il professore segnalava agli astanti il sonno della sua consorte. Si limitava sulle prime a guardarla e a sorridere, perché se, come medico, disapprovava quel sonno postprandiale, o almeno adduceva questa ragione scientifica quando finiva con l'arrabbiarsi, ma non è certo che fosse determinante, tanto variegate erano le sue opinioni al riguardo. Come marito onnipotente e dispettoso, era felice di prendere in giro sua moglie, di svegliarla da prima solo a metà, in modo che si riaddormentasse e lui avesse il piacere di ridestarla ancora. Al momento, Madame Cottard dormiva veramente. «Allora, Leontine, si sonnecchia, eh?» le gridò il professore. «Sto ascoltando Madame Swann, caro», rispose debolmente Madame Cottard, ripiombando subito nel suo letargo. «È incredibile!» esclamò Cottard. «Fra un istante ci giurerà di non aver dormito. È come i pazienti che si fanno visitare e sostengono di non dormire mai.» «Forse se lo immaginano», disse ridendo il signor di Cambremer. Ma al dottore piaceva contraddire non meno che fare dispetti, e soprattutto non ammetteva che un profano osasse parlargli di medicina. «Non ci si immagina di non dormire», promulgò in tono dogmatico. «Ah», disse il marchese inchinandosi rispettosamente, come avrebbe fatto un tempo il suo interlocutore. «È evidente», riprese Cottard, «che non vi è capitato, come a me, di somministrare fino a 2 grammi di Trional senza riuscire a provocare lo stato di sonno.» Infatti, convenne il marchese, ridendo spavaldamente. «Non ho mai preso Trional, né altre droghe del genere che smettono subito di fare effetto e in compenso rovinano lo stomaco. Quando si è cacciato tutta la notte come me, nella foresta di Chantepie, vi assicuro che non si ha bisogno di Trional per dormire.» «Sono gli ignoranti a dire queste cose», replicò il professore. Il Trional, a volte, solleva sensibilmente il tono nervoso. «Parlate di Trional, ma avete un'idea di cosa sia?» «Ma ho sentito dire che era una medicina per dormire.» Non avete risposto alla mia domanda, riprese in tono dottorale il professore che in facoltà era ad esami 3 volte alla settimana. Non vi ho chiesto se fa dormire o no, ma di cosa si tratta? Sapete dirmi quante parti contiene di amile e quante di etile? No, rispose imbarazzato il signor di Cambremer. Preferisco un buon bicchiere d'acqua vite o anche di porto 345, che sono 10 volte più tossici, lo interruppe il professore. Quanto al Trional, azzardò il signor di Cambremer, mia moglie è abbonata a tutta questa roba, sarebbe meglio che ne parlaste con lei. Che ne saprà più o meno quanto voi. In ogni caso, se vostra moglie prende il Trional per dormire, la mia, come vedete, non ne ha bisogno. Insomma, Leontin, muoviti. Ti stai anchilosando? Ti sembra forse che dorma dopo pranzo io? Cosa farai a 60 anni se già adesso dormi come una vecchia? Ingrasserai, ti si ferma la circolazione. Niente, non mi sente neanche più. Non giovano alla salute questi sonnellini dopo mangiato, non è vero, dottore? Disse il signor di Cambremer per riabilitarsi agli occhi di Cotard. Dopo un buon pranzo bisognerebbe fare un po' di moto. Tutte storie, ribatté il dottore. Si è prelevata un'identica quantità di cibo nello stomaco d'un cane che era rimasto fermo e in quello d'un cane che aveva corso, ed è nel primo che la digestione era più avanzata. Allora è il sonno che interrompe la digestione? Dipende se si tratta di digestione esofagea, gastrica, intestinale. Inutile darvi spiegazioni che non capireste, visto che non avete studiato medicina. Su, Leontin, avanti, marsch! È ora d'andarcene. Non era vero, perché il dottore s'accingeva semplicemente a continuare la sua partita a carte, ma sperava così di contrastare in modo più brusco il sonno della muta alla quale rivolgeva, senza ricevere risposta, le più dotte esortazioni. Sia che una volontà di resistenza al dormire persistesse in Madame Cotard anche nello stato di sonno, sia che la poltrona non prestasse sostegno alla sua testa, quest'ultima fu sballottata meccanicamente da sinistra a destra e dal basso in alto, nel vuoto, come un oggetto inerte, e Madame Cotard, col capo ciondoloni, dava l'impressione un po' d'ascoltare della musica, un po' d'essere entrata nell'ultima fase dell'agonia. Laddove gli ammonimenti via via più veementi del marito fallivano, poté su di lei il sentimento della propria stupidità. «L'acqua del bagno è alla temperatura giusta», mormorò, «ma le piume del dizionario», esclamò raddrizzandosi. «Oh mio Dio, che stupida! Cosa sto dicendo? Pensavo al mio cappello. Devo aver detto una sciocchezza. Momenti, m'addormentavo. Sarà questo un maledetto fuoco?» Tutti si misero a ridere, perché non c'era nessun fuoco.